Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi parliamo di un tipo di fabbrica veramente hard, un settore veramente dove si parla di fabbrica e che ricorda il mondo antico, ma come vedremo è invece modernissimo. Parliamo di un'azienda che si chiama Phoenix, che fa stampi per l'estrusione dell'alluminio e sta a Verdello nella Bergamasca ed è una multinazionale tascabile. E ne parliamo perché questa è la storia in cui si possono identificare molte di quelle aziende meccaniche che rappresentano il meglio dell'industria italiana e ci danno da mangiare a tutti, ma anche perché hanno fatto un fortissimo investimento in informatica, in IT, in digitalizzazione. Hanno fatto dei passi molto importanti verso l'Industry 4.0 e noi cercheremo di capire che cosa comportano questi e perché lo hanno fatto. Perché un'azienda che fa stampi per l'estrusione di alluminio, mette i sensori dappertutto e fa investimenti in IT così forte? Ce lo spiegherà il dottor Roberto Rusticelli, che è l'amministratore delegato di Phoenix e che è il nostro ospite di oggi. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Intanto, cosa sono gli stampi per l'estrusione di alluminio? Allora, di fatto uno stampo che viene utilizzato per ottenere dei profili d'alluminio e quindi pressando una billetta d'alluminio, che è un grosso cilindro di alluminio preriscaldato, riscaldando il nostro stampo e premendolo contro il nostro stampo si ottengono dei profili che hanno le tipiche applicazioni la più comprensibile a tutti, serramenti d'alluminio, però abbiamo anche grosse applicazioni nell'automotive, nei settori industriali e anche nell'arredamento. E come mai a Verdello in provincia di Bergamo? Perché lì c'è un saper fare su queste cose? Sicuramente perché tra Bergamo e Brescia si concentra direi l'80% della produzione di profili d'alluminio in Italia ed ovviamente perché i soci fondatori erano in parte bresciani e in parte bergamaschi e da qui è nata la storia. Voi avete tre stabilimenti in Italia, dove sono? Allora, uno a Verdello, uno a Novolento in provincia di Brescia e un altro a Brescia che fa trattamenti termici, che è parte del nostro processo produttivo. Poi so di unità produttive in Spagna, Germania, Romania, Olanda, Dubai e Cina. Esatto, in Cina abbiamo un ufficio. A Dubai uffici, non unità produttive. Sono uffici, non unità produttive in questi paesi. No, sono tutte unità produttive ad esclusione della Cina che è un ufficio, quindi abbiamo produzione sia in Spagna sia in Germania che in Olanda. Ecco, ma tutto questo con appena perché per l'Italia è grande ma a livello europeo è una piccola cifra, appena 81,5 milioni di fatturato e oltretutto con soli 81 milioni mantenete tutti questi stabilimenti, date da lavorare a 550 persone e avete anche un EBITDA molto alto, ma come fate? Direi che intanto la necessità di avere questi stabilimenti, conseguenza del settore che richiede elevatissimi livelli di servizi in termini di tempi di consegna e di supporto al cliente. Quindi è una scelta che da certi punti di vista può apparire non efficiente, ma è richiesta dal mercato. No, ma a me piace evidenziare delle cose che vanno contro il luogo comune, perché poi anche in economia o nel racconto della storia delle aziende ci sono tanti luoghi comuni che sono falsi, tipo che si fanno tanti profitti se si hanno pochi dipendenti. Non è vero, ma lo vedremo meglio nella seconda parte della trasmissione. Vado avanti. E abbiamo ovviamente cercato da un lato di coniugare questi due aspetti, da un lato sicuramente servire al meglio il cliente, ma al tempo stesso grazie alle dimensioni che abbiamo e alla dimensione relativa rispetto ai nostri concorrenti, ricordo che siamo più del doppio del secondo operatore nel nostro settore, di avere quelle economie di scala e quelle competenze, quelle curve di esperienza che ci consentono di avere, oltre che un vantaggio competitivo in termini di prodotto, anche un vantaggio competitivo in termini di costo. Quindi avere delle persone che sanno lavorare bene può dare un vantaggio competitivo, anche se sono tante, perché poi alla fine quello che conta sono gli utili e il fatturato, non tenere bassi i costi come fanno certi manager che sono molto miopi. Assolutamente. Assolutamente sì, però dobbiamo interromperci per avvisi sul traffico e pubblicità. Fabbrica 2.4. Allora, rieccoci in linea, stiamo parlando con Roberto Rusticelli della Phoenix, che fa stampi per estrusione di alluminio, e rilevavamo che è un'azienda che fa 81,5 milioni di euro di ricavi, ha un EBITDA veramente alto, lui non vuole dire quale sia perché poi i concorrenti potrebbero avere informazioni preziose, ma io vi dico che è veramente alto, e 550 dipendenti, 3 stabilimenti in Italia e 5 stabilimenti all'estero, insomma una struttura che può sembrare ridondante dato il fatturato, ma che invece è alla base dell'elevata redditività dell'azienda, e quindi stavamo parlando del valore strategico, soprattutto del valore economico delle risorse umane. Prosegua, perché era molto interessante quello che diceva prima della pausa pubblicitaria. Assolutamente, e la reputo una priorità, almeno dal punto di vista del mio stile di gestione, perché dico sempre macchinari e anche IT si possono comprare, soprattutto ad oggi la disponibilità di capitali è enorme. La cosa fondamentale per la crescita delle aziende è avere persone motivate che non sono mai soddisfatte di quello che si è ottenuto, sempre alla ricerca di stimoli al miglioramento. Per farle un esempio, all'interno della nostra organizzazione abbiamo già sponsorizzato 2 Master in Business Administration, uno di questi è peraltro persona che è cresciuta all'interno della struttura, e per dirle eravamo una mosca bianca, perché quando questa persona aveva 32 anni era già il direttore industriale di uno stabilimento di 180 persone. Quindi per noi è assolutamente una priorità quella di investire sulle persone a tutti i livelli, e tutti gli anni spendiamo anche in formazione per far crescere. Ecco, ma dei vostri 550 dipendenti, quanti sono operai, quanti dirigenti, quanti impiegati, ricercatori? Cioè, ci può dire un po' come sono suddivisi? Guardi, allora la struttura dirigenziale si compone circa di una decina di persone, abbiamo poi una struttura importante in ufficio tecnico, perché a livello di gruppo abbiamo circa 100 disegnatori, dopodiché abbiamo una serie di professionisti all'interno di ciascun reparto appunto a cercare il miglioramento continuo. Mi sento di dire che il numero di operai è relativamente basso. Nel Quanti senso sono gli operai? 40%, 200-250 persone. Quindi del gruppo. Lei mi conferma che è vero quello che noi stiamo dicendo in queste trasmissioni, che l'automazione e la robotizzazione cancella dei posti di lavoro a basso valore aggiunto, ma ne crea ad alto valore aggiunto. Quindi in certi casi, tranne perché... Esatto. Il saldo è positivo. Esatto, cioè mi sento di dire che l'affermazione sempre del cancella dà sempre una visione negativa di quella che è l'automazione. Da un lato è vero, si riducono i posti di lavoro, come diceva lei, a basso valore aggiunto, ma per ottenere questi risultati poi si accresce l'occupazione a pensare questi nuovi sviluppi in termini di automazione e quant'altro. Ma quindi lei che cosa pensa della crescente meccanizzazione e dell'arrivo dei robot in fabbrica? Ma ad essere molto onesto dico che è qualcosa di necessario. Noi parliamo sempre di Cina e che il costo del lavoro prima o poi crescerà, però il livello di costo unitario è talmente tuttora basso che l'unico modo per le imprese, mi sento di dire, del mondo occidentale per affrontare questa concorrenza, sicuramente da un lato è la qualità del prodotto, l'innovazione, ma poi avere anche una posizione di costo estremamente efficiente. Ripeto, questo richiede comunque a monte pensare queste cose, avere continuamente nuove idee per l'innovazione di prodotto e di processo, e quindi investire molto di più sulla qualità delle risorse e pensare un po' meno alla numerosità. Quindi, ecco, il nostro dibattito sui robot, che va avanti da qualche settimana, non è ancora terminato. Ieri vi ho letto alcune lettere che sono arrivate, ne stanno arrivando tantissime. Diteci la vostra su che cosa pensate dell'arrivo dei robot in fabbrica. Sono veramente necessari? Si possono fermare? Vanno incentivati? privati e che cosa pensate della proposta di Bill Gates e di altri della tassa sui robot. fabbrica@radio24.it. Voi ci direte la vostra e noi leggeremo, come ho fatto ieri, alcune delle vostre email in trasmissione. Comunque noi vi diciamo la nostra, e la nostra opinione è che l'automazione corrisponde al progresso assoluto, l'arrivo dei robot dovrebbe essere incentivato il massimo possibile, che sul breve medio periodo creano più occupazione di quanta non ne distruggano, anche se ci saranno delle conseguenze sociali, ci saranno dei perdenti assoluti, e questi perdenti assoluti andranno accompagnati con adeguate azioni di welfare, che possono essere la riqualificazione per i più giovani o delle forme per i più vecchi che non sono impiegabili altrove di salario di cittadinanza. fabbrica@radio24.it. Senta, ma lei, Rusticelli, che cosa ne pensa della tassa sui robot? Allora, se devo essere onesto, mi coglie un po' impreparato. La cosa che mi stupisce è che io ricordo ancora che lessi un libro di Bill Gates degli anni 90, dove lui menzionava il fatto che ci saremmo dovuti abituare non solo a non essere legati all'azienda in cui si lavorava, ma che l'innovazione tecnologica ci avrebbe portato a dover anche cambiare mestiere più di una volta nella vita. E quindi penso che questa sia la fattispecie, cioè che si debba arrivare al punto in cui, e soprattutto essere molto chiari con tutte le persone, che il destino è quello di innovarsi noi stessi, capire se ci sono innovazioni tecnologiche che portano a far scomparire dei lavori e riconvertirsi e far qualcos'altro. Quando anche lei parla di welfare, per me è la riqualificazione, i soldi per la riqualificazione delle persone. Sì, anche se uno di 55 anni con basso livello di istruzione, che ha sempre fatto mansioni ripetitive, come lo vuoi riqualificare, poraccio? Comunque, io volevo invece, negli ultimi 3 minuti che ci restano, parlare di uno dei motivi per cui io ho invitato la Phoenix, che sono i vostri forti investimenti in IT, dei quali parlavamo anche nella trasmissione di ieri con l'amministratore delegato di HPE Stefano Venturi. Voi siete un'azienda molto manufacturing, molto produzione, eppure avete investito moltissimo in hardware, in software, in Industry 4.0, e oltre al software avete dato molta importanza proprio al hardware. Insomma, voi avete puntato tanto verso la digital transformation. Io vorrei che negli ultimi 3 minuti lei ce lo raccontasse. Sì, noi abbiamo iniziato un percorso, allora abbiamo sempre investito, perché siamo state per esempio fra le prime aziende a utilizzare software tridimensionali per la progettazione, quindi per noi la parte informatica ha sempre avuto un'enorme rilevanza. Nell'ultimo quinquennio abbiamo lavorato tantissimo sulla parte infrastrutturale, tendenzialmente diciamo spostandoci dal ferro, dai server, a tutto ciò che è cloud, con delle priorità che per quanto ci riguarda, per i livelli di servizio che le dicevo, la priorità assoluta era la continuità del servizio tra tutti gli stabilimenti. Ad oggi siamo a circa 99,6 di questo di livello di servizio. Abbiamo poi tutta la parte di automazione all'interno della fabbrica, quindi digitalizzazione, di rilevazione delle informazioni all'interno della fabbrica. Ma cosa ne fate di queste informazioni che ci sono all'interno della fabbrica? Perché è tanto importante mettere i sensori dappertutto e poi rilevare i dati? Dopodiché quei dati a cosa vi servono? Perché a mio avviso tutto ciò che non si misura non può essere migliorato, quindi ci siamo detto, se dobbiamo ottenere miglioramenti di processo, prima cosa dobbiamo rilevare i fenomeni, che possono essere la saturazione degli impianti, i tempi di processo, anche rilevazioni specifiche sulla qualità di processo, per vedere il punto in cui siamo e per poi ogni anno poterci migliorare, quindi avere un feedback immediato e numerico delle azioni di miglioramento che implementiamo, vederle poi sui numeri. E questo è uno dei motivi per cui riuscite ad avere un EBITDA così elevato? Presumo di sì, o diciamo questo è il mio obiettivo, questo è il nostro obiettivo. Poi i motivi veri non si sanno mai, perché c'è sempre un grande coacervo di fattori, non sai mai quello che pesa di più e quello che pesa di meno. Esattamente. Poi abbiamo investito tanto in software, sia per il miglioramento del nostro prodotto, quindi sviluppando una serie di software a supporto della progettazione. Quali software? Stiamo sviluppando. Quali sono? Quelli della Siemens, quelli dei gemelli digitali? No, essendo noi una nicchia molto piccola, abbiamo una joint venture con una società svizzera dove abbiamo sviluppato un software per la simulazione del processo di estrusione. Quindi sono software scritti ad hoc. Stiamo sviluppando in una serie di interfacce per migliorare la relazione col cliente via web e quindi avere tutti i feedback da un punto di vista tecnico del nostro cliente direttamente sul web con il supporto di telecamere e quant'altro. Ecco, la devo interrompere perché il tempo è tiranno. Comunque una storia molto interessante, ne abbiamo già parlato anche ieri con Stefano Venturi di HPE. Se volete sentire la puntata di ieri la potete scaricare il podcast sul sito di Fabrica 2.4, dal quale arrivate passando attraverso il sito di Radio 24. Saluto tutti gli ascoltatori ai quali auguro buona domenica. Saluto e ringrazio Roberto Rusticelli. Saluto anch'io lei e tutti gli ascoltatori, grazie mille.